Tra le attività meno nocive cui usano indulgere i filosofi, c'è quella di proporci dei paradossi. C'è delle proposizioni contro l'apparenza, paradoxan in greco, come a dire contro le nostre aspettative, che noi, abituati come siamo a confondere le nostre aspettative con la logica o con la realtà, sembrano andare direttamente contro la logica o contro la realtà. Così, Zenone di Evea, nel V secolo a.C., acquistò una certa fama sostenendo che il più veloce Achille, se gli avesse dato un sia pur minimo vantaggio, non avrebbe mai potuto superare la tartaruga in una gara di corsa, perché a tal fine avrebbe dovuto arrivare al punto da cui la bestiola era partita, ma frattanto costei si sarebbe presa un certo vantaggio, ponendo la necessità di raggiungerla di nuovo, e mentre Achille provvedeva la bisogna avrebbe guadagnato qualche millimetro ancora, e così via all'infinito. Aristotele, un paio di secoli dopo, ci dilettò tutti col paradosso del bugiardo. Se Epimenide di Creta dice che tutti i cretesi sono bugiardi, più semplicemente se uno afferma di essere bugiardo, dirà presumibilmente una bugia, ma la bugia di chi dice di essere bugiardo è la verità. E chi dice la verità, bugiardo certo non è. D'altronde, se dicesse la verità, bugiardo non potrebbe essere neanche se lo affermasse veracemente. In epoca a noi più vicina, Bertrand Russell trovò il tempo, tra una marcia della pace e una vite con Wittgenstein, di formulare, sia pure per negarlo, il paradosso del barbiere. Se in un certo villaggio nessuno si fa la barba da sé, ma tutti si fanno fare la barba dal barbiere, chi fa la barba al barbiere? Pensateci e vedrete che è una festa dello spirito. Naturalmente, nella vita di tutti i giorni le cose non vanno così, in pratica Achille vince sempre, Achille di Omero naturalmente, non Occhetto. Per restituirgli anche da un punto di vista teorico primato basta riflettere sul fatto che affermare che una grandezza è divisibile all'infinito non vuol dire che questa grandezza sia infinita. E quanto ai bugiardi e ai barbieri, le proposizioni che li riguardano dimostrano soltanto come in certi contesti sia meglio evitare espressioni del tipo di tutti e di sempre. E in questi contesti di solito gli unici veri bugiardi sono i filosofi, anche se non sempre per colpa loro. Conoscerete tutti l'analisi ceccatiana della svista conoscitiva. Se non la conoscete, fatevela spiegare dal Felice Accame, che è il massimo esperto mondiale, e vedrete che bello. Io qui voglio soltanto richiamare la vostra attenzione su quello che potremmo definire il paradosso del politico discriminato. È quello che si instaura quando un politico qualsiasi comunica a tutti, utilizzando con grande dovizia gli appositi media, che il destino o la malvagità altrui gli rendono impossibile comunicare qualcosa a qualcuno. Più volgarmente, quando ci si fa propaganda con l'argomento che per un motivo o per l'altro ci è negato la possibilità di farci propaganda. Non so, credo che voi abbiate notato che l'argomento abbia avuto un certo suo peso nella campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Milano, ma per rispetto alla legge che disciplina la citazione radiofonica dei nomi dei candidati, io propongo di limitarci a definirlo il paradosso del Pannella, dal nome del suo massimo instauratore, che d'altronde non credo sia completamente privo di rapporti con le vicende che hanno turbato le nostre elezioni municipali. Che volete che vi dica? Sarà per amore di analogia, ma io sospetto fortemente che anche questo paradosso sia facilmente sanabile. Basta supporre che il politico in questione sappia benissimo che questo è un ottimo metodo per farsi propaganda, ovvero che come Epimenide di Creta sia un bugiardo. E non dite che così da un paradosso si cade in un altro, perché questo tipo di bugiardi, a differenza di Epimenide, non sostengono affatto di essere tali, ma vantano sempre la propria sincerità e la buona fede. Siamo noi che non gli dobbiamo credere.